Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Ringrazi Dio, non me. Lui ci ha fatto sopravvivere. Almeno è ciò che dovremmo credere. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi Il pianista di Roman Polanski. È la storia delle vicende vissute dal pianista ebreo Vladislav Spielman allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Audiogrammi in radio come al cinema. Władek Spielman iniziò la sua carriera di pianista durante la guerra, al caffè Novocesna, nel cuore del ghetto di Varsavia. Quando nel novembre del 1940 i cancelli del ghetto vennero chiusi, la sua famiglia ormai da molto tempo aveva venduto tutto quello che si poteva vendere, persino quello che loro consideravano il loro bene più prezioso, il pianoforte. Questo è il mio prezzo, questo è quanto vi offro. E il mio consiglio è di accettare, nessuno vi darà di più. Ma questo è un Bechstein, signor Lippmann. 2000 zloty, e il mio consiglio è di accettare. Che farete quando avrete fame, ve lo mangerete? Fuori da questa casa, maledetto ladro schifoso, via di qui! Piuttosto lo regaliamo il piano, se ne vada! Fame dalla testa, eh? Ma che diavolo le prende? Mi sembrate matti. La sua giornata lavorativa iniziava nel pomeriggio. Il caffè era frequentato dai ricchi che vi si recavano carichi di gioielli d'oro e di brillanti. Allo schiocco dei tappi dello champagne, prostitute truccate vistosamente offrivano i loro servizi ai borsaneristi seduti ai tavoli riccamente imbanditi. Fu lì che Władek perse due illusioni: la fiducia nella solidarietà umana e nell'amore degli ebrei per la musica. A Novocesna nessuno badava alla sua musica. Più forte suonava, più gli avventori occupati a bere e a mangiare alzavano il tono della voce, e ogni giorno tra lui e il suo pubblico si ingaggiava una gara per vedere chi riuscisse a sopraffare l'altro. Scusami, Władek, vogliono che ti fermi. Chi vuole che io mi fermi? Grazie a Dio presto trovò lavoro in un caffè in via Siena, dove l'intelligenza ebraica veniva a sentirlo suonare. Fu lì che cominciò a farsi conoscere e che strinse legami con persone con le quali in seguito avrebbe trascorso ore piacevoli, ma anche alcuni momenti di paura. Dopo 4 mesi si trasferì in un altro locale, lo Stuka Art, in via Leschno. Era il caffè più grande del ghetto e aveva velleità artistiche. Władek si esibiva al pianoforte in coppia con Andrei Goldferer e ottenne un grande successo con la sua parafrasi del valzer di Casanova di Ludomir Rucheski. Sicché in quel periodo guadagnava piuttosto bene e riusciva a soddisfare, pur con qualche difficoltà, i bisogni della sua famiglia, composta da 6 persone. Un mare di infelicità ebraica fluttuava attorno alle isolette di relativa prosperità rappresentata dall'intelligenza ebraica e dalla vita lussuosa dei borsaneristi. I poveri erano già duramente debilitati dalla fame e non avevano alcun modo di proteggersi dal freddo per l'assoluta impossibilità di procurarsi il combustibile. Erano anche infestati dai parassiti. Il ghetto brulicava di parassiti contro i quali non c'era nulla da fare. Gli indumenti di chi per strada ti passava vicino erano infestati dai pidocchi, e così pure i tram e i negozi. Pidocchi formicolavano sui marciapiedi, su per le scale e cadevano giù dai soffitti degli edifici pubblici nei quali toccava recarsi per le più svariate esigenze. Pidocchi si insinuavano tra i fogli piegati del giornale, tra gli spiccioli che si tenevano in tasca e ve ne erano persino sulla crosta del pane appena acquistato. E ognuno di quei minuscoli parassiti poteva causare il tifo. E infatti, nel ghetto scoppiò un'epidemia. Ogni mese il tasso di mortalità toccava le 5.000 persone. Poiché i cadaveri non potevano essere abbandonati nell'interno delle case, fu trovata una soluzione provvisoria. I morti venivano spogliati dei loro indumenti, troppo preziosi ai vivi per lasciarglieli addosso, e quindi messi fuori sui marciapiedi, avvolti nella carta. Spesso rimanevano lì per giorni. Alla vigilia del 31 agosto 1939, tutti a Varsavia davano per certa l'inevitabilità della guerra con i tedeschi. Tuttavia, si pensava che l'inizio delle ostilità avrebbe subito un ritardo, sicché la gente avrebbe avuto modo di vivere una vita piena ancora per un po'. Dopotutto, era bello vivere. Fu imposto un rigoroso oscuramento notturno in tutta la città, ma le orchestrine continuavano a suonare dietro le vetrine oscurate dei caffè e dei bar, dove i clienti bevevano, ballavano e attizzavano il loro patriottismo con canti osannanti alla guerra. La necessità di imporre il coprifuoco, l'occasione di andarsene in giro con la maschera antigas appesa alla spalla, un rientro notturno in tassi attraverso vie che a un tratto apparivano diverse, conferivano un che di avventuroso alla vita, visto soprattutto che ancora non c'era un pericolo reale. Secondo notizie pervenuteci dalla BBC di Londra, il governo britannico, non avendo ancora ricevuto un'adeguata risposta all'ultimatum presentato al governo tedesco, ha dichiarato guerra alla Germania nazista. Prima dello scoppio della guerra, il ghetto non era ancora stato creato e Vladek abitava con i suoi genitori, le sue sorelle e suo fratello in via Sliska e lavorava come pianista alla radio polacca. La sera del 31 agosto rincasò tardi e sentendosi stanco, Vladek andò subito a coricarsi. Dovevano essere almeno le 8 quando la porta della sua camera si aprì. Sulla soglia si affacciò sua madre, più pallida del solito. Aprì la bocca, ma ancor prima di pronunciare una sola parola la voce le mancò e dovette schiarirsi la gola. «Alzati, la guerra! È cominciata la guerra!» Vladek decise di andare direttamente alla stazione radio dove avrebbe trovato i suoi amici e appreso le ultimissime notizie. Sui muri degli edifici e negli spazi riservati alle affissioni già si potevano vedere grandi manifesti bianchi. Recavano il messaggio del presidente alla nazione. Annunciavano che i tedeschi avevano attaccato. Fare valigia, raduna anche tu le tue cose, forza. Ma perché? Dove andiamo? Via da Varsavia. Via da Varsavia dove? Ma non hai sentito? Era circa a metà strada quando l'ululato delle sirene prese a risuonare dagli altoparlanti collocati sui lampioni stradali, alle finestre e all'ingresso dei negozi. Le donne, in preda al panico, si precipitarono verso i rifugi. Gli uomini se ne stavano nei portoni, imprecando contro i tedeschi, facendo gran mostra del proprio coraggio e prendendosela contro il governo che aveva mobilitato alla Carlona, cosicché risultavano scarsi gli effettivi validi per la difesa richiamati in servizio. Ci sta imballando le cose. Il governo si è spostato a Lublino. Tutti i maschi abili lascino la città, attraversino il fiume e organizzino una linea di difesa. È così che dicevano. In questo palazzo non c'è quasi più nessuno, solo donne. La sera del 7 settembre, la prima granata dell'artiglieria tedesca si abbatté sul deposito di legname di fronte a casa Spielmann. I vetri delle vetrine del negozio sull'angolo, sigillati con tanta cura con strisce di carta bianca, furono i primi ad andare in frantumi. Non c'era più da scherzarci sopra. L'intera città veniva bombardata. Continuavano a sentire il sibilo dei proiettili fuori dalle finestre, ormai tutte prive di vetri, ed era concreto il rischio che uno di quei proiettili concludesse la sua traiettoria aerea contro il loro caseggiato. Quell'ultimo giorno alla stazione radio, Spielmann suonava la musica di Chopin. Fu l'ultima trasmissione musicale in diretta da Varsavia. Per tutto il tempo in cui Spielmann suonò, i proiettili continuarono a esplodere vicino alla stazione radio e gli edifici più vicini erano in fiamme. Nel frastuono si riusciva a stento a sentire il suono del pianoforte. Dopo il recital, Spielmann dovette attendere 2 ore prima che il bombardamento rallentasse quanto bastava di tornare a casa. Non ti agitare, fra poco sarà a casa. Ci serve un'altra valigia per le scarpe. Mamma, Vuadek è tornato. Grazie a Dio, Vuadek. Sei ferito? No, no, è solo un taglietto, non è niente. Ero così preoccupata. Le ho detto di stare calma, tanto avevi addosso i documenti. Se ti colpiva una bomba, i pezzi li portavano qui. Davanti al portone del loro caseggiato giaceva il cadavere di una donna con la testa e un braccio tranciati di netto. Accanto a lei c'era un secchio capovolto. Era andata a prendere l'acqua alla fontana. Il suo sangue scendeva nel canale di scolo in un rivolo lungo e scuro e proseguiva finendo nello scarico della fogna, protetto da una grata. Varsavia si arrese mercoledì 27 settembre. La città non esisteva più. La gente affamata per il lungo assedio si buttava sulle carogne dei cavalli che giacevano al suolo. In questo mondo nuovo, dove tutto ciò che aveva avuto un valore durevole un mese prima adesso era distrutto, le cose più semplici, cose cui prima quasi non si badava, avevano assunto un significato di enorme importanza. Una comoda e solida poltrona, l'aspetto rassicurante di una stufa rivestita di piastrelle bianche, lo scricchiolio del legno sull'impiantito. Un punto di svolta cruciale fu la fucilazione dei primi 100 innocenti cittadini di Varsavia, nel dicembre del 1939. Nel giro di poche ore sorse un muro di odio fra i tedeschi e i polacchi, e negli uni negli altri, da quel momento, sarebbero più riusciti a scalarlo. Segni distintivi per il popolo ebreo del distretto di Varsavia. Ordino che tutti gli ebrei del distretto di Varsavia indossino marchi visibili quando escono di casa. Questo decreto entrerà in vigore il 1 dicembre 1939 e sarà applicato a tutti gli ebrei di età superiore ai 12 anni. Il marchio verrà indossato sulla manica destra e dovrà raffigurare una stella di David blu su uno sfondo bianco. Lo sfondo deve essere abbastanza grande da far sì che la stella misuri 8 centimetri da punta a punta. La larghezza delle punte della stella deve essere di un centimetro. Gli ebrei che non obbediranno a questo decreto saranno puniti severamente. Il governatore del distretto di Varsavia. Presto cominciarono a essere pubblicati decreti concernenti esclusivamente gli ebrei. Ogni famiglia ebrea non poteva tenere in casa più di 2000 zlotchi. Altri risparmi e oggetti di valore dovevano essere depositati in banca su un conto bloccato. Furono obbligati a pagare i biglietti del tram 4 volte più degli ariani. Vuadek, hai visto? Cosa? Cosa? Sto lavorando. Cosa c'è? È il posto dove ci metteranno. Dove ci metteranno? Per ordine del governatore del distretto di Varsavia, dottor Fischer. Progetto per la realizzazione di un distretto ebreo a Varsavia. Avevano preso a circolare le prime voci della costruzione di un ghetto. Nemmeno nei loro pensieri più riposti avrebbero mai sospettato che potesse accadere una cosa del genere. Gli ebrei che vivono al di fuori dell'area preposta dovranno trasferirsi nel nuovo distretto entro il 31 ottobre 1940. Non possono metterci lì. È troppo piccolo, a Varsavia ci sono 400.000 ebrei. Gli ebrei avrebbero dovuto munirsi di bracciali bianchi contrassegnati da una stella azzurra di Davide. Secoli di progresso dell'umanità stavano per essere spazzati via, per tornare al Medioevo. Per settimane e settimane l'intelligenza ebraica si tenne volontariamente agli arresti domiciliari. Nessuno si sarebbe avventurato in strada con quel marchio sulla manica. E se proprio era indispensabile uscire di casa, si cercava di passare inosservati, camminando con gli occhi abbassati, l'animo colmo di vergogna e di angoscia. E con questo siamo arrivati a 5.003. Eh? Ma così poco? Sì, 5.003 sloti è esattamente quello che ci è rimasto. Quindi abbiamo 3.003 sloti di troppo. Ascolta, ulteriori restrizioni riguardanti i capitali liquidi. Agli ebrei sarà permesso di tenere in casa un massimo di 2.000 sloti. Fedeli al loro sistema di esercitare la pressione con gradualità crescente, nel gennaio e nel febbraio del 1940 i tedeschi emanarono nuovi decreti repressivi. Il primo annunciava che gli ebrei avrebbero dovuto lavorare per 2 anni in campi di concentramento, dove avrebbero ricevuto una educazione sociale appropriata, tale da emendare la loro natura di parassiti inseriti nell'organismo sano delle genti ariane. Ci sarebbero dovuti andare gli uomini tra i 12 e i 60 anni e le donne tra i 14 e i 45. Il secondo decreto stabiliva il modo per registrarli e portarli via. Per risparmiarsene il fastidio, i tedeschi stavano trasferendo nella responsabilità al consiglio ebraico che gestiva l'amministrazione della comunità. Gli ebrei avrebbero dovuto assistere al loro sterminio, preparando la loro rovina con le loro stesse mani. Lo so. Mamma. Mamma. Che cosa c'è? 20 zloty. Ecco tutto quello che ci resta, solo 20 zloty. Cosa ci posso comprare con 20 zloty? Non ce la faccio più a cucinare sempre patate, patate, patate. Quando imboccavano via Karmelička, tanto affollata da non consentire in alcun modo alle persone per strada di rifugiarsi nei portoni, gli uomini della Gestapo si sporgevano e picchiavano in modo indiscriminato con i loro manganelli speciali, rinforzati da chiodi e dalla mette da barba. Sì! Warum haben Sie sich nicht verbeugt? Entschuldigen Sie. Domenica 19 luglio 1940, Vladek suonò di nuovo nel giardino di un caffè di via Novolipki, ben lungi dall'immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima esibizione davanti al pubblico del ghetto. Il caffè all'aperto era gremito, ma lo stato d'animo della gente era alquanto cupo. Dopo il concerto, Vladek fece una capatina allo Stuka. Era tardi e nel locale non era rimasto più nessuno, all'infuori del personale ancora impegnato nelle ultime pulizie della giornata. Il direttore era di cattivo umore, impartiva ordini senza alcuna convinzione, quasi si trattasse di un mero atto formale. «Ha già cominciato i preparativi per il nostro concerto di sabato?» chiese Vladek. Il direttore lo fissò come se non sapesse di cosa stesse parlando. Poi il suo volto assunse un'espressione di ironico compatimento di fronte alla sua evidente ignoranza degli avvenimenti che avevano determinato una svolta totalmente diversa nel futuro del ghetto. «Lei crede che sabato saremo ancora vivi?» ribatté il direttore chinandosi sul tavolo verso di lui. «Sono convinto di sì», rispose Vladek. Quasi che questa risposta non solo avesse aperto nuove prospettive di salvezza, ma che tale salvezza dipendesse da lui, gli afferrò la mano e disse con fervore: «Beh, bene, se davvero saremo ancora vivi, sabato potrà ordinare qualsiasi cosa lei desideri per cena a mie spese e potrà ordinare il meglio che le cucine siano in grado di offrire. Anche questo a mie spese, a volontà». Il mattino del 22 luglio iniziarono le operazioni di trasferimento del ghetto. Un distaccamento di soldati ucraini, in uniformi gialle mai viste, marciava lungo via Chiodna, guidati da un sottufficiale tedesco. Ogni pochi passi si fermavano e uno dei soldati si appostava accosto al muro di cinta del ghetto. Verso mezzogiorno i soldati cominciarono effettivamente a sgombrare le residenze degli anziani, gli ospizi dei veterani, i rifugi per la notte. Tutti gli ebrei abili al lavoro venivano destinati all'est. Ciascuno poteva portarsi 20 kg di bagaglio, provviste per 2 giorni e preziosi. Una volta arrivati a destinazione, quanti erano in grado di lavorare sarebbero stati alloggiati in baracche e si sarebbero visti assegnare lavori nelle industrie tedesche locali. Solo i funzionari degli enti sociali ebraici e il consiglio ebraico non subivano lo stesso trattamento. Alla fine, dunque, il peggio era accaduto. La gente di un'intera zona della città, una popolazione di 500.000 di persone, sarebbe stata deportata. Email audiogrammi@radio24.it. Audiogrammi torna tra poco, qui su Radio 24. Il primo lavoro che Vladek fece per conto dei tedeschi fu quello di trasportare da mattina a sera mobili, specchi, tappeti, biancheria e indumenti. Tutta roba appartenuta a qualcuno fino a pochi giorni prima e che rivelava il gusto delle persone che l'avevano posseduta. Se si trattava di gente ricca o povera, di indole gentile o crudele. Ora tutto questo non apparteneva a nessuno. Erano solo mucchi e cataste di oggetti maneggiati con malagrazia. Beh, almeno abbiamo trovato un lavoro nel ghetto. E almeno siamo insieme. Il 2 agosto di primo mattino giunse l'ordine per tutti gli ebrei di lasciare il ghetto piccolo entro le 6 del pomeriggio dello stesso giorno. Vladek ebbe appena il tempo di prendere da via Slishka qualche indumento e delle coperte, le sue partiture, una raccolta di recensioni dei suoi concerti, il suo lavoro creativo di compositore e il violino di suo padre. Ma dove ci portano? Andate a lavorare. Sarà sempre meglio che stare in questo ghetto. Muoversi. Muoversi! Avete un po' d'acqua per mio figlio? Vi prego! Mi ha sentito, sì o no? Sto dicendo che questa è una vergogna. Sì, ho sentito. Lasciamo che ci portino a morire come delle pecore al macello. Perché non ci ribelliamo? Siamo 500.000 qui, potremmo rompere queste catene. Il centro di raccolta si trovava ai limiti del ghetto, vicino ai binari della ferrovia, circondato da un reticolo di strade, di vicoli e di cunicoli sudici. Si erano sistemati alla belle meglio e aspettavano l'arrivo del treno. A un tratto un ragazzo si fece largo in mezzo alla folla e si avvicinò a loro. Appesa al collo portava una cordicella con una scatola di dolci. Li vendeva a prezzi ridicoli, anche se solo il cielo sa cosa pensava di farsene del denaro. Ehi ragazzo, vieni qui. Vieni qui. Quanto per uno zucchero caramellato? 20 zloty. Per uno solo? Che cosa te ne farai di quei soldi? 20 zloty. Ci arriviamo a 20 zloty. Mettendo insieme le ultime monetine che restavano, gli Spielmann comprarono un'unica creme caramel. 5, 10, 20. Quello fu l'ultimo pasto che consumarono insieme. Verso le 6 di quello stesso giorno, il centro di raccolta fu pervaso da un clima di tensione. Erano giunte alcune automobili tedesche e la polizia stava passando in rassegna quelli che erano destinati a essere portati via, scegliendo fra loro i più giovani e forti. Subito dopo si udì il fischio di una locomotiva in lontananza e lo sferragliare di vagoni sui binari farsi sempre più vicino. Oltre una dozzina di carri bestiame e merce avanzava lentamente, recando con loro una zaffata soffocante di cloro. Una fila di poliziotti si era disposta a pochi passi dal treno e lasciava aperto un varco per far passare la gente. Quel varco conduceva alle portiere dei vagoni. Quando gli Spielmann arrivarono davanti al binario, i primi vagoni erano già pieni. La gente stava in piedi, ammassata fino all'inverosimile. Le SS continuavano a spingere con i calci dei fucili, benché dall'interno dei carri si levassero grida disperate e lamenti per la mancanza d'aria. L'odore del cloro rendeva difficile respirare persino a una certa distanza. Si erano spinti circa a metà del treno, quando improvvisamente una mano afferrò Vladek per il bavero della giacca e lo scaraventò all'indietro, fuori dal cordone della polizia. Spielmann! Hai capito? Vattene! Papà! Un poliziotto si girò e lo fissò con aria adirata. Che cazzo fai ancora qui, Spielmann? Ti ho salvato la vita! Alza il culo e vattene! Vattene! Non correre! Mamma! Mamma! Mamma! In un lampo si rese conto di quale sorte aspettava la gente una volta salita sui carri bestiame. Gli si rizzarono i capelli in testa. Si guardò alle spalle e vide il campo di raccolta, i binari e le pensiline e oltre queste le strade. Corse in quella direzione, spinto da una paura irrazionale. Si infilò in mezzo a una colonna di persone che lavoravano per il consiglio ebraico e che si stavano allontanando e di lì varcò il cancello. Le portiere dei vagoni erano oramai chiuse e il treno si stava mettendo in moto a rilento. Alle sue spalle aveva lasciato il centro di raccolta, e i vagoni che portavano via la sua famiglia. Un giorno, il direttore della Filarmonica di Varsavia, Jan Dorakowski, lo vide mentre attraversava la piazza. Parve sinceramente commosso, lo abbracciò e quando gli disse che i suoi erano stati portati via da Varsavia, lo fissò con un'espressione di profonda pena. Gli prese le mani e le strinse calorosamente. Esitò per un attimo, quindi soggiunse a bassa voce, quasi in un bisbiglio: non li rivedrà mai più. All'inizio dell'inverno 1942, Vladek fu trasferito nei nuovi alloggi del ghetto in via Curza e gli fu cambiato anche posto di lavoro. Il freddo aumentava di giorno in giorno e le sue dita si intorpidivano sempre di più durante il lavoro. Una mattina inciampò mentre portava il secchio con la malta e si slogò la caviglia. Non più abile a quel lavoro, fu assegnato ai magazzini, dove faceva più caldo che all'esterno. Il 1 gennaio 1943, Roosevelt annunciò che i tedeschi sarebbero stati sconfitti. Sulle linee del fronte ora risultava chiaro che le cose per loro andavano peggiorando. Era giunta la notizia della sconfitta tedesca di Stalingrado, una notizia troppo importante perché potesse essere messa a tacere o quantomeno minimizzata con la solita dichiarazione stampa. I tedeschi dovettero ammetterlo e proclamarono 3 giorni di lutto. Fu il primo momento di relativa tranquillità dopo mesi. Tra i combatti segui l'aquila bianca, sorge e combatti l'acerrimo nemico, canta mitraglia e sputa fuoco e fiamme, rompi le catene, basta schiavitù, muoia l'oppressor che la nostra patria ha invaso. Il 14 gennaio successivo, un venerdì, furiosi per le sconfitte al fronte e per la gioia che manifestamente ciò suscitava nei polacchi, i tedeschi cominciarono una caccia all'uomo in tutta Varsavia. Weißt du, warum wir euch verprügeln? Nein. Weißt du, warum wir euch verprügeln? Andarono avanti così ininterrottamente per 3 giorni. Convogli di furgoni della polizia carichi di prigionieri si allontanavano verso il carcere e tornavano vuoti, pronti a caricare nuove infornate di reclusi da trasferire nei campi di concentramento. Prima di finire in uno dei convogli della morte o di essere ucciso da una delle SS che sorvegliava il suo lavoro, Vladek riuscì a fuggire, trovando rifugio nello studio di un artista, una stanza ampia con il soffitto a lucernario. Le faccio vedere dove dormirà. Nascoste da porte c'erano nicchie prive di finestre su ambedue i lati. Vladek si sentiva al settimo cielo per il solo fatto di non vedere tedeschi. Deve restare qui fino a domani pomeriggio. Poi la portiamo in un appartamento. È vicino al muro del ghetto, ma è sicuro. Ora non doveva più sentire le loro urla, temere di essere picchiato o ucciso in qualunque momento da una di loro. Il suo umore cominciò a migliorare solo quando ebbe inizio la grande offensiva degli alleati in Africa, coronata da continui successi. In un caldo giorno di maggio, mentre si stava preparando un piatto di minestra per il pranzo, comparve un suo ex collega della radio, il direttore d'orchestra Czesław Lewicki. Ansimante per aver fatto di corsa 4 piani di scale, rimase in silenzio per alcuni minuti per riprendere fiato. Quindi con voce strozzata gli diede la notizia tanto attesa. La resistenza tedesco-italiana in Africa era finalmente crollata. Vladek si rasò con cura, si vestì e uscì di casa alle 8 del mattino, cercando di camminare in modo disinvolto. Nessuno parve notarlo, nonostante i suoi lineamenti chiaramente non ariani. Comperò il pane e tornò a casa. grazie a quell'unica pagnotta, non aveva altro denaro, sopravvisse per 10 interi giorni, fino al 28 luglio. Il 29 luglio, nelle prime ore del pomeriggio, udì bussare leggermente. Non si mosse. Da lì un po' una chiave fu girata con molta cautela nella serratura. La porta si aprì ed entrò un giovane che Vladek non conosceva. Era il fratello di Levitsky ed era venuto a dirgli che il giorno seguente gli sarebbe stato portato del cibo. Un po' di pane, patate, cipolle. Io tornerò presto. Grazie. A mezzogiorno del 12 agosto, mentre si stava preparando come al solito la minestra, udì qualcuno che cercava di introdursi nell'appartamento. Quello non era il modo in cui gli amici bussavano quando andavano a trovarlo. Era un martellamento sulla porta. Di lì a poco si rese conto che delle voci accompagnavano quei colpi. Una donna gridava: «Aprite la porta o chiamo la polizia!» Le altre persone del caseggiato avevano scoperto che si era nascosto lì e avevano deciso di consegnarlo per evitare il rischio di essere accusati di proteggere un ebreo. Vladek si vestì in fretta e furia, buttò in una sacca le sue ultime composizioni e poche altre cose. Aprì silenziosamente la porta, scivolò fuori e raggiunse la scala. Subito si trovò faccia a faccia con una delle donne. Lei abita qui? Non è registrato. È la casa di un mio amico. Sono venuto a trovarlo, ma deve essere uscito. Ha la carta d'identità? Mi mostri la carta d'identità. Sì, certo. Era chiaro che si era postata lì fuori per assicurarsi che non fuggisse e cercò di fermarlo. Voglio vedere la carta d'identità! Ma che succede? È un ebreo! È un ebreo! Vladek scostò di forza la donna e si precipitò giù per le scale. La udì urlare alle sue spalle: fermatelo! Raggiunse l'androne e corse fuori. Ancora una volta era riuscito a sfuggire alla morte, che però era sempre in agguato. Il 21 agosto si trasferì in un grande edificio adibito ad appartamenti. Quello sarebbe stato il suo ultimo nascondiglio prima della rivolta polacca e della totale distruzione di Varsavia. Uno spazioso appartamento da scapolo al quarto piano, al quale si accedeva direttamente dalla scala. Qui sarà al sicuro, nel cuore della tana del lupo. La chiuderò dentro. Nessuno sa che lei è qui, perciò non faccia rumore. Si sarebbe anche trovato discretamente in quel nuovo rifugio se la sua salute non fosse peggiorata tanto rapidamente. Vladek aveva gravi problemi al fegato, tanto che ai primi di dicembre ebbe un attacco così violento che riuscì a stento a non urlare. La crisi durò tutta la notte. Poi giunse il 1944. Il 6 giugno la donna che lo nascondeva andò a trovarlo nel pomeriggio. Era raggiante e gli portava la notizia che americani e inglesi erano sbarcati in Normandia. Avevano spezzato la resistenza tedesca e stavano avanzando. Il 12 agosto 1944, verso mezzogiorno, la casa in cui si nascondeva Vladek fu circondata dai tedeschi per essere sgombrata al più presto, perché l'artiglieria si accingeva a raderla al suolo. Alcuni uomini delle SS irruppero nell'edificio precipitandosi su per le scale. Vladek si chiuse a chiave nella stanza, rovesciandosi sul palmo i potenti sonniferi che aveva preso quando aveva sofferto di attacchi di fegato e sistemò a portata di mano la boccetta di oppio. Aiuto! Aiuto! Intendeva inghiottire le pastiglie e bere l'oppio nell'esatto momento in cui i tedeschi avessero cercato di sfondare la porta. Subito dopo però cambiò idea. Uscì dalla stanza, corse su per la scaletta che portava al solaio, la tolse e chiuse la botola alle sue spalle. Il tema è andato ora! Nel frattempo i tedeschi entrarono. Quando si allontanarono, Vladek strisciò fuori dalla soffitta e tornò indietro. Si distese di nuovo sul divano, prese il tubetto di sonnifero, ne vuotò il contenuto in bocca e ingoiò. Si accinse a bere l'oppio pur di avere la certezza di morire, ma non ne ebbe il tempo. Il sonnifero aveva agito immediatamente nel suo stomaco vuoto e si addormentò. Non morì. Evidentemente le pastiglie non avevano avuto un effetto letale. Si svegliò alle 7 del mattino in preda alla nausea. Era solo in quel quartiere della città. Il 18 settembre squadriglie aeree sorvolarono Varsavia, paracadutando rifornimenti ai rivoltosi. Poi gli aerei bombardarono quella parte ancora in mano ai tedeschi e lanciarono paracadutisti di notte nel centro. Contemporaneamente il fuoco di artiglieria dalla parte orientale si faceva sempre più violento. Il 15 novembre 1944 cadde la prima neve. Il freddo era sempre più insopportabile sotto il mucchio di stracci che Vladek aveva messo insieme per ripararsi. Al mattino, quando si svegliava, li trovava coperti da uno spesso strato di soffice neve bianca. Un giorno applicò un pezzo di tessuto che aveva trovato dietro il vetro rotto di una finestra e si guardò in quello specchio improvvisato. In un primo momento tentò a capacitarsi che l'immagine orrenda che vedeva riflessa fosse la sua. I capelli non erano più stati tagliati da mesi ed erano arruffati e sudici. La barba, incolta, sporca e folta, nascondeva quasi completamente il volto e nel punto in cui lo lasciava scoperto, la pelle appariva quasi nera. Le palpebre erano arrossate e il cuoio capelluto era coperto di croste. Se ne stava lì, in piedi a guardarsi, quando udì dei passi. Non fece in tempo a salire nel solaio e si trovò davanti a un soldato con l'elmetto e un fucile tra le mani. Il suo volto aveva un'espressione vacua e un po' ottusa. Si allarmò quanto Vladek per quell'incontro imprevedibile in mezzo alle macerie, ma cercò di assumere un'espressione minacciosa. Il tedesco gli puntò addosso il fucile e gli ordinò di seguirlo. Vladek gli disse che lo avrebbe fatto, ma che la sua morte gli sarebbe pesata sulla coscienza e che se lo avesse lasciato andare gli avrebbe dato in cambio mezzo litro d'alcol. Il tedesco si dichiarò d'accordo su quella forma di pagamento, ma gli fece chiaramente capire che sarebbe tornato e che avrebbe dovuto dargli dell'altro alcol. Non appena se ne fu andato, Vladek tornò velocemente in soffitta, ritirò la scaletta e chiuse la botola. Come prevedibile, di lì a un quarto d'ora il soldato tornò, questa volta accompagnato da diversi commilitoni e da un sottufficiale. Quando Vladek udì i passi e le voci, cercò riparo su un pezzo di tetto ancora integro, che era molto inclinato. Si distese appiattendosi sul ventre, appoggiando i piedi contro la grondaia. Se si fosse piegata o avesse ceduto, sarebbe scivolato sulla lamiera del tetto e sarebbe caduto dall'altezza di 5 piani nella strada sottostante. Fortunatamente la grondaia resse e ancora una volta, grazie a questo insolito e disperato espediente, Vladek riuscì a sfuggire alla morte. Erano quasi le 10 del mattino e Vladek era appiattito sul tetto rigido quando all'improvviso udì una raffica di colpi vicinissimi. 2 tedeschi, in piedi sul tetto dell'ospedale, gli stavano sparando addosso. Scivolò di nuovo in soffitta e si precipitò verso la botola, tenendosi chino per non essere colpito, mentre i proiettili gli passavano sopra la testa. No! L'ho sparata, vi prego! Aiuto! Vi prego! L'ho sparata! Riuscì ad arrivare alla scala sano e salvo. Non c'era tempo per fermarsi a pensare. Il suo ultimo nascondiglio in quell'edificio era stato scoperto e doveva abbandonarlo al più presto. Tuttavia, di lì a un po', scorse in lontananza un edificio alto, l'unico edificio a più piani di quel quartiere. Vi faceva molto più caldo che nel suo nascondiglio precedente, anche se di lì sarebbe stato impossibile fuggire. All'ultimo piano del caseggiato c'era una finestrella di vetro piombato, dalla quale poteva osservare il vicinato. Dopo 2 giorni in questa nuova sistemazione, Vladek dovette uscire dal suo nascondiglio per cercare del cibo. Nel caseggiato trovò una cucina con una dispensa contenente alcune latte, dei sacchetti e delle scatole. Così assorto nella sua ricerca, non si accorse dell'ufficiale tedesco, alto ed elegante, appoggiato alla credenza della cucina, le braccia conserte. L'ufficiale volle sapere chi fosse e cosa facesse per vivere. Il pianista, rispose Vladek. Lo osservò più attentamente, con evidente sospetto. Poi il suo sguardo si posò sulla porta che dalla cucina conduceva verso altre stanze e parve colpito da un'idea. Vieni con me. Lo condusse in un'altra stanza, dove accosto alla parete c'era un pianoforte. Gli indicò lo strumento. Suona qualcosa, gli disse. Se arriva qualcuno, nasconditi nella dispensa. Dirò che stavo provando io il pianoforte. Quando Vladek posò le dita sulla tastiera, tremavano. Questa volta avrebbe dovuto pagare un prezzo per la sua vita suonando il pianoforte. Eseguì il notturno in do diesis minore di Chopin. L'ufficiale convinse Vladek a nascondersi lì, lo aiutò a cercare una scala negli appartamenti sottostanti e gli promise che sarebbe tornato ogni giorno a portargli da mangiare. Solo allora Vladek si arrischiò a fargli la domanda che non riusciva assolutamente più a trattenere. Lei è tedesco? Avvampò e in preda all'agitazione, quasi urlando, gli rispose come se lo avesse insultato. Sì, e me ne vergogno. L'ufficiale andò da Vladek per l'ultima volta il 12 dicembre. Gli aveva portato una provvista di pane e una coperta pesante. Venne Natale e poi il nuovo anno del 1945. Il sesto Natale, il sesto Capodanno dall'inizio della guerra. Nascosto nel suo solaio, Vladek ascoltava la guerra scoppiare le ultime bombe nella città distrutta. Negli intervalli, fra una raffica e l'altra tra le macerie, sentiva lo squittio e il fruscio dei topi che scorrazzavano per il solaio. A volte zampettavano addirittura sopra la sua coperta e quando dormiva gli correvano sul volto graffiandolo con le unghie. All'alba del 15 gennaio si udì il rombo dell'artiglieria provenire dal fronte sulla Vistola, fino ad allora silenzioso. Il terreno e i muri della casa tremavano sotto i colpi sordi e continui. Le lamiere metalliche del tetto vibravano e dalle pareti interne si staccava l'intonaco. Solo alle prime ore del giorno seguente il silenzio fu infranto da un rumore forte e risonante. L'ultima cosa che si sarebbe aspettato di sentire. Gli altoparlanti della radio stavano diffondendo annunci in lingua polacca. Annunci della disfatta della Germania e della liberazione di Varsavia. Non appena cominciò ad albeggiare, si preparò febbrilmente per avventurarsi per la prima volta fuori, finalmente libero. Testo tratto da Il pianista, la straordinaria storia di un sopravvissuto, di Vladislav Spilman, editore Baldini e Castoldi. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.